Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come annunciato già venerdì, torneremo sul tema dei consumi. Lo spunto ce l'avete fornito in molti casi voi, unendo due notizie: da un lato quella dello scorso 25 settembre, in cui di nuovo i dati Istat avevano segnalato un calo molto forte nelle vendite a luglio, l'ultimo dato disponibile, le vendite a dettaglio, e dall'altro, colpendo anche i generi alimentari e non solo, alcune polemiche sui ristoranti, gli alberghi sempre pieni, l'iPhone 6. Insomma, in realtà c'è un'idea ancora in molti ascoltatori che la crisi non sia una reale crisi dei consumi, perché poi in alcuni casi si vedono le file davanti, nel caso specifico ai negozi dell'Apple. Torneremo sul tema, perché le due cose stanno assieme ed è come si stanno assieme. Sull'attualità di politica economica invece torneremo sui conti pubblici italiani e sull'andamento dell'economia italiana, perché oggi ne ha parlato il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ha parlato di economia europea alla Camera e ha detto una frase, insomma, abbastanza così da prendere con molta attenzione, perché ha detto: attenzione, le stime di crescita sono state eccessivamente ottimistiche fino a pochi mesi fa. La crescita si è dovuta spostare più in là nel tempo e alcune cause non sono state ben comprese, cioè alcune cause di un PIL che è cresciuto molto meno delle attese, non cresce quest'anno, non le abbiamo ancora comprese. I problemi che abbiamo di fronte sono più profondi di un semplice andamento ciclico. Ecco, di questo parleremo anche nella seconda ora del programma, perché poi Padoan è intervenuto sui temi chiaramente del debito, dei mix di politica, non solo austerità, usare tutti gli strumenti a disposizione, e viene dopo il weekend molto intenso per Renzi, che è iniziato, se vogliamo, quando finiva Focus Economia, ossia con l'arrivo di Renzi e Marchionne nella fabbrica della Chrysler. Su questo avremo anche faremo ascoltare anche qualche passaggio, ma poi è continuato ieri con l'intervista A che tempo che fa, da Fabio Fazio, e di nuovo, come i nostri GR24 vi hanno raccontato, il tema oggi c'è il direttivo del PD, il tema della riforma del mercato del lavoro è tutto sul tappeto, e anche la posizione dei sindacati. Ma dicevo, partiamo subito da Padoan, nel giorno in cui la borsa, per inciso, fa meno 1,36% a Milano, Parigi meno 1, Francoforte meno 0,80, Londra meno 0,14, l'America mezzo punto percentuale di calo. Segnalo che anche lo spread si è un po' rialzato, è arrivato a quota 144-145 punti contro quota 128, mentre l'euro resta sotto quota 1,27 a 1,2691. Peggior titolo meno 3,60 Salvatore Ferragamo, e poi la Pop Milano meno 2,90, Unipolsai meno 2,60 come Mediobanca, Monte dei Paschi e anche Toz, Popolare Emilia Romagna meno 2,40, Telecom meno 2,30 come il Banco Popolare, il 2,20 lo perde Intesa San Paolo, il 2% a 2A. Padoan che ammette: i motivi di una crisi più prolungata e di una revisione al ribasso delle stime di crescita, quindi appunto da un po' di crescita a un po' di recessione pure nel 2014, mi sembrano un'operazione intanto di onestà intellettuale, poi vedremo se arriveranno anche le misure. Negli ultimi mesi più o meno tutte le istituzioni internazionali, ma anche i governi nazionali e anche gli analisti privati hanno dovuto ripiegare su se stessi per quanto riguarda le stime di crescita, che si sono rivelate eccessivamente ottimistiche fino a pochi mesi fa. Questi rinvii suggeriscono non solo che la crescita si è dovuta spostare più in là nel tempo, ma che probabilmente alcune cause profonde della mancanza di crescita non sono ancora ben comprese da tutti noi. I problemi che ci stanno di fronte sono più profondi di un semplice andamento ciclico, per quanto particolarmente pronunciato. I principali fattori sono immediatamente riassumibili così: gli investimenti che sono andati calando in tutti i paesi europei e non solo per molti anni e che stentano a riprendere, la disoccupazione che soprattutto nella zona euro resta molto elevata in tutte le sue componenti, l'andamento dei prezzi che è continuato ad andare in basso e ora ci troviamo in una situazione che con un neologismo si chiama di bassa inflazione. Ci troviamo quindi di fronte a una combinazione molto preoccupante di persistenza di bassa crescita, di bassi investimenti, di elevata disoccupazione, di bassa o nulla inflazione, in un contesto nel quale il debito pubblico e privato rimane elevato. Stesso ministro dell'economia Padoan ammette il neologismo bassa inflazione, che è un modo carino, bruttissimo termine, carino, per non dire che non che siamo in deflazione. No, allora si preferisce dire bassa inflazione, e vabbè, ma comunque lo giri, il risultato non cambia. Allora, vedo già molti messaggi, un attimo di pazienza, adesso arriviamo. Chi rimpiange il governo Letta, chi rimpiange il governo Monti, uno può rimpiangere quello che vuole, io rimpiango la crescita che non c'è dal 2007, però al di là dei governi. Comunque andiamo avanti invece con le altre notizie. Per quello che riguarda il fronte internazionale, mi chiedete di Hong Kong, no, in questo momento non ci sono ripercussioni fondamentale, certo l'indice Hang Seng questa mattina ha chiuso con un calo del 2%, però devo dire cali analoghi si erano avuti anche in altre piazze, vedremo cosa capiterà domani su Hong Kong. Per ora siamo sul fronte, diciamo, del tema di ordine pubblico da un lato, di rapporti anche diplomatici dall'altro, visto la posizione della Cina contro gli Stati Uniti. Crisi ucraina, dalla tensione ad Hong Kong, ripeto, per ora solo di ordine pubblico la crisi ucraina. Perché? Perché c'è un accordo all'interno della Commissione europea per finanziare con 165 milioni di euro di nuovi aiuti i produttori danneggiati dall'embargo e dall'embargo sostanzialmente messo in piedi dalla Russia. Si tratta soprattutto dei produttori di ortofrutta. La decisione era stata discussa sabato e domenica scorsa alla Commissione europea. Non c'è certezza su dove saranno prelevati i nuovi fondi europei, se dai margini del bilancio agricolo o dalla riserva di crisi. Mentre la crisi ucraina non dovrebbe avere nessun o generare nessun problema sulle riserve di gas italiano e sull'approvvigionamento di gas italiano. Lo ha detto oggi qui al Sole 24 Ore nel corso del 14° Italian Energy Summit il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Ascoltiamolo al microfono del nostro Stefano Totoro. Credo che noi abbiamo un'autosufficienza energetica, in questi anni abbiamo puntato molto sulle energie rinnovabili e credo che dobbiamo continuare su questa strada. Se dovessero inasprirsi le sanzioni nei confronti della Russia, lei non vede nessun rischio? Io oggi non sono in grado di dirlo, io non sono il ministro dell'energia, purtroppo in Italia i due ministeri sono divisi, ambiente ed energia. Io vedo la mia parte, che è quella dell'energia rinnovabile e dell'efficientamento energetico. Noi su questo stiamo andando avanti in maniera forte e credo che da qui possa venire un ottimo contributo all'indipendenza energetica. Restiamo sull'Europa, perché da un lato l'Unione Europea potrebbe infliggere ad Apple una multa record da diversi miliardi di dollari per gli accordi fiscali in Irlanda che sono oggetto di un'indagine, lo riporta oggi il Financial Times. Sostanzialmente l'accusa è che queste grandi multinazionali, Apple è una di queste, vadano a mettere la sede legale dove è più conveniente da un punto di vista fiscale, e quindi, ma non dove hanno l'operatività, e quindi aggirando o sfruttando queste pieghe di una non omogeneità fiscale in Europa. Infatti l'inchiesta di Apple è l'inchiesta più ampia che riguarda le multinazionali e gli accordi fiscali ottenuti con alcuni paesi europei. Un'altra vicenda riguarda invece Commerzbank, ma questa volta è la giustizia americana a essere coinvolta, perché come raccontammo praticamente anche settimane fa, la giustizia americana ha aperto un'indagine contro Commerzbank per presunta violazione delle leggi antiriciclaggio. Oggi lo ha ricordato anche Wall Street Journal. La banca tedesca era già alle prese infatti con un'indagine sull'ipotesi di non aver rispettato l'embargo a Iran e Sudan. Detto ciò, la banca tedesca cala, è arrivata a perdere il 5% in borsa a Francoforte. Visto che parlavamo della Germania, oggi ci sono i dati sull'inflazione in Germania, più 0,8%, quindi è il valore più basso dal 2010, è ancora inflazione, cioè non è in deflazione come l'Italia, però è un valore molto basso. I prezzi su base mensile sono rimasti invariati, sostanzialmente l'inflazione resta in linea in Germania a settembre con il dato di agosto e luglio. In Italia invece il tesoro oggi ha collocato in un'asta di BTP a 5-10 anni 5 miliardi e mezzo di titoli di Stato italiani. I rendimenti, parlavamo prima dello spread, sono un po' aumentati perché è anche se va detto che diciamo la domanda era più che buona, i BTP a 10 anni hanno avuto un rendimento al 2,45%, e così come bene è andata anche la richiesta per i BTP a 5 anni, il tasso è dell'1,05%, in questo caso in leggero calo rispetto alla prima emissione. Allora, ci sono alcune dichiarazioni di Renzi che vi faremo ascoltare realizzate a Che Tempo Che Fa. Io però le farei ascoltare nella seconda ora del programma, quando parleremo di articolo 18, il direttivo del PD, le dichiarazioni di Padoan. No, vorrei concentrarmi su un'altra cosa, anche le dichiarazioni dei sindacati. Visto che parlavamo di Fiat, alcuni messaggi email che mi invitavano a dire: ma insomma, lei cosa ne pensa, cosa ne pensate, non commentate il fatto che Renzi sia andato a trovare Marchionne nella visita negli Stati Uniti e quant'altro, perché in realtà commentiamo solo l'arrivo dei due. Allora parliamo di questo e poi arriviamo al tema netto dei consumi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Su Renzi e Marchionne, Fiat è un'azienda storica, credo che oggi sia una grande azienda con capacità globale. Questa è una scommessa che ci piace, l'idea del Made in Italy che vogliamo supportare e difendere. Dottor Marchionne è l'amministratore delegato di una grande azienda, di un'azienda storica per il nostro paese, di un'azienda che per tanti anni ha rappresentato l'Italia più di qualsiasi altra cosa. Io dico nel bene e nel male, perché comunque ciascuno di noi può avere le proprie idee sul passato del rapporto tra Fiat e politica. Io ho le mie, le ho espresse in passato. Credo che oggi sia una grande azienda capace di stare sul mercato globale con Fiat, Chrysler, automobili, con una straordinaria possibilità di sviluppo, e a me questa scommessa qui piace. Perché? Perché è l'idea del Made in Italy che noi vogliamo supportare e difendere. Allora, così Renzi, un attimo con le obiezioni. Sì, certo, l'idea del Made in Italy che vogliamo aiutare tutti e difendere è un Made in Italy che diventa globale e che va sui mercati anche aprendo impianti in quelle regioni, in quelle aree, perché non puoi semplicemente esportare dall'Italia, lo dico a tutti. Un conto è internazionalizzare, un conto è delocalizzare. Ecco, sentiamo anche Marchionne, poi io però un commentino ce l'avrei, perché adesso sembra quasi di sparare sulla Croce Rossa in sto periodo a criticare Renzi, ma un po' più di prudenza nel dire che questo è made in Italy che vogliamo esportare, quando l'accusa alla Fiat, ma non perché lo dico io, è di aver fatto un'operazione che va, crea un grosso vantaggio alla Chrysler, minori vantaggi alla Fiat italiana. Beh, io un po' di più di prudenza l'avrei messa prima di dire che quello è il made in Italy che vogliamo esportare, anche perché abbiamo migliaia di imprenditori italiani che pagano le tasse in Italia, che risiedono in Italia, che stanno esportando, perché lo vediamo dai numeri, che vanno a creare gli impianti lì se necessario per quei mercati, ma tengono il grosso, la testa, gli investimenti in Italia. Ora, non è che proprio la Fiat abbia fatto questa operazione, a partire dai modelli, ma non solo. Comunque, Marchionne sempre con Renzi. Il presidente non ha paura. Guardi, questo non è un fatto da sottovalutare. Perché la sfida, e l'ho ripetuto a New York, glielo ripeto qui dentro, la sfida che è davanti non è da tutti, tutti i commenti, anche la CEI, tutti quello che abbiamo sentito anche stamattina, giornalisti che scrivono articoli contro, cioè. È un discorso molto, molto difficile da fare in Italia. Io ho assorbito un certo numero di critiche dal sistema italiano e, a dire la verità, me ne sono fregato. E credo la cosa importante del Presidente, che deve fare altrettanto, che l'agenda che ha davanti è un'agenda enorme. Il Paese veramente è da ricostruire e bisogna ricominciare oggi a farlo, e credo che non dobbiamo condividere le metodologie di questo cambiamento. Questa è la scelta sua da Presidente del Consiglio, io faccio il mio mestiere, lui fa il suo. Ma la cosa importante è avere il coraggio di andare avanti. Senza farsi intimidire, senza farsi impressionare da altri, la cosa importante è, sapendo che dal punto di vista di equità e di giustizia stiamo facendo le cose necessarie per il Paese. Solo questo mi interessa. E se questo è un punto comune, che Dio lo benedica, no? So, non mi interessa dei punti comuni tra Marchionne e Renzi, però perché invitavamo la prudenza? Perché onestamente ci sono tante imprese italiane che stanno conquistando i mercati, che mantengono la produzione qua, che innovano, che vanno in quei mercati. Allora, la Fiat, però, lasciatemi dire, non me ne frega nulla che qualcuno mi scriva che sono venduto al potere forte. Quali poteri forti sono in questo paese, me lo dica lei. Però abbiate pazienza, noi abbiamo contato in 10 anni 9 piani industriali di Marchionne, dal 2004 al 2013, nessuno dei quali ha raggiunto gli obiettivi. Allora, nel 2004 10 nuovi modelli in 3 anni, nel 2005 però i modelli diventano 17 in 4 anni, e 13 restyling e quasi 10 miliardi di investimenti. Nel 2006 però si cambia di nuovo, arriva il terzo piano di Marchionne, ci saranno 16 miliardi di investimenti e 15 nuovi modelli. Per l'Alfa 5 modelli, ne arriveranno invece 2. Nel 2009 c'è il quarto piano di Marchionne, 30 nuovi modelli in 2 anni e 8 miliardi di investimenti. Nel 2010 c'è un altro piano, a questo punto è il quinto piano di Marchionne, che si chiama Fabbrica Italia, 20 miliardi di investimenti. Sono tutti piani annunciati, non piani realizzati, ma magari avesse fatto un piano all'anno. C'è la quinta versione del piano, dicevo, nel 2010, il piano Fabbrica Italia, 20 miliardi di investimenti per portare la produzione italiana da 500.000 a 1.600.000 veicoli. Salutami a core, com'è che dicono a Roma? Vabbè, andiamo avanti. Poi, nel 2011 viene cancellato invece il quinto e ultimo piano Fabbrica Italia, arriva il sesto piano con il lancio di 2 SUV che però devono ancora arrivare. Nel 2012 c'è l'ottavo piano di Marchionne, questa volta però non si specifica più l'ammontare degli investimenti, ma calano gli obiettivi di vendita. Nel maggio del 2014 arriva FCA e si dice che nel piano industriale di FCA, entro il 2018 il gruppo vuole raddoppiare le vendite, avere 8 nuovi modelli Fiat, rilanciare Alfa Romeo e 5 miliardi di investimenti. Un analista statunitense nel commentare il piano ha detto: per credere al piano serve un atto di fede. I risultati, perché poi in questo programma si parla anche di numeri. Allora, le vendite Fiat continuano a contrarsi in Europa. Nel 2006 stiamo parlando di quota di mercato, quindi è la percentuale, diremmo noi, lo share rispetto a tutto il venduto. La quota di mercato nel 2006 era del 7,2%, la quota di mercato adesso è del 6%. Renzi, Presidente del Consiglio Renzi, prima di dire che l'idea del Made in Italy è quella di un gruppo che perde quote di mercato anche a livello europeo, ma col massimo rispetto per la Fiat, noi continuiamo a tifare Fiat, a tifare Italia, a sperare che la Fiat faccia uscire i modelli. Un po' più di prudenza, visto che qua continuiamo a raccontare con interviste sicuramente molto meno fighe di andare da Marchionne, ma di imprenditori che modestamente fanno più 7% di fatturato in tutti i settori, che siano il marmo, l'abbigliamento, il latte, la ceramica, il redobagno. Cioè, noi siamo più modesti, però questi fanno 7% in più, l'8%, l'agroalimentare, il vitivinicolo. Allora, anche quello è il Made in Italy che a noi piace, visto che ormai nella nautica, l'abbiamo raccontato, visto che ormai in quei settori il 70% è export e resta sì e no il 30% in Italia. E comunque, per chiudere in bellezza, così direte che oggi ce l'ho con la Fiat, il mitico spot Fabbrica Italia, quello che lanciò il piano da 20 miliardi che non si è mai visto, lo spot Fabbrica Italia. Ok, dato che non vuoi dormire, adesso ti racconto di questo piano industriale. Dici che cosa interessa a te? E niente, almeno adesso. Ma in 5 anni raddoppia la produzione di veicoli in Italia e aumenta l'esportazione. Anche in America. Raddoppia la produzione, raddoppiano le possibilità. Anche per me. E allora mi chiederai, io cosa faccio? Non lo so. Per esempio, posso comprare un'auto italiana. Il colore lo scegli tu magari, eh? Le sono arrivati i soldi della Valle, bravo Barigioni. No, guardi, a parte il fatto che da quando ho spaccato la gamba, anche volessi non potrei mettere le scarpe della Valle, posso portare solo scarpe da ginnastica, ma lei è veramente un genio. Cosa posso dire? È un genio, bravo, ha capito tutto ed è giusto che segua questo programma, perché noi ci muoviamo in base ai soldi che ci arrivano. Ma il punto è molto semplice, che voglio dire, qualcuno si può permettere di commentare cosa sta facendo la Fiat? Noi chiediamo modelli. Allora, quando il Presidente del Consiglio va e dice questo è il Made in Italy che vogliamo, si assume una responsabilità, e siccome modestamente in questi 14 anni qualche imprenditore che fa Made in Italy all'estero l'abbiamo avuto in trasmissione, no, perché c'è qualcuno che dice ma perché non proponete? Continuiamo a fare interviste e chiedere agli imprenditori che quale consiglio che può dare ai suoi colleghi, come avete fatto ad aumentare il fatturato nonostante non vendete più in Italia. Ecco, modestamente qualche bel esempio di Made in Italy glielo suggerivamo noi al Presidente del Consiglio. La Fiat avrà mille motivi per cambiare i piani, ma non si può dire che i 9 piani, 10 piani annunciati sull'Italia siano stati dei successi. Vogliamo dire che essere scesi al 6% di quota di mercato è stato un successo. Prima era colpa del mercato che non cresceva, però gli altri crescono. Comunque, pensatela come vuole. E comunque, se ci ascolta della Valle, non mi mandi le scarpe, che tanto non potrei metterle. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo i consumi. No, non torno più sul tema della Fiat. Abbiamo raccontato, tifando Italia e tifando Fiat, non ho nessun problema a dirlo a chi mi dice lei non può dire che tifa Fiat. Tifo Fiat perché tifo qualunque azienda italiana, però abbiamo solo detto che attenzione, perché insomma, bisogna anche avere un minimo di spirito critico. E obiettivamente il Presidente del Consiglio, è vero che è stato alla rubinteria bresciana, lo sappiamo, abbiamo avuto ospite il proprietario e presidente Aldo Bonomi del rubinteria bresciana, va bene, però attenzione, perché no, cioè non sei un privato cittadino. Comunque, i consumi che non ci sono. Professoressa Debora Viviani, che insegna a sociologia dei consumi all'Università di Verona, ma è membro dell'Osservatorio Nazionale sui Consumi. Buonasera. Buonasera. Allora, perché l'abbiamo perché ospitata? Perché venerdì non siamo riusciti a toccare un tema che in realtà è molto sentito anche a pelle dagli ascoltatori. Ossia, noi abbiamo raccontato anche la settimana scorsa come gli ultimi dati dell'Istat, scusatemi, sulle vendite al dettaglio hanno visto calare le vendite a luglio -1,5% sull'anno, variazioni negative per i prodotti alimentari -2,5%, non alimentari -1%, i negozi, i piccoli negozi alimentari continuano a soffrire tantissimo e sono quelli più massacrati, -4%, la grande distribuzione alimentare -1,7%, si sono salvati solo i discount +1,7%. Pensate che ormai le famiglie italiane che frequentano i discount hanno superato i 3 milioni. Sempre la settimana scorsa la Coldiretti ci ha ricordato che il 47% delle famiglie taglia la spesa a tavola e che c'è la corsa ai prodotti low cost. Però molti ascoltatori mi hanno detto: vede Barisone, parlate sempre di crisi, di consumi, e poi arriva l'iPhone 6 in Italia e si bloccano i centri dell'Apple che lo vendono. Allora, no, lei sorride, però in realtà non è la prima volta, anzi sarà la centesima volta che io becco messaggi che dicono: beh, i ristoranti poi sono pieni, c'era traffico in autostrada, non c'era un buco in albergo. Allora, come si tengono assieme i dati aggregati sui consumi che hanno tutti un'unica indicazione, però poi con questi fenomeni che lasciano così sorpresi, disorientati gli ascoltatori? È una bella domanda. Nel ogni senso tanto che mi capita, sì. Allora, noi come osservatorio sui consumi, appunto, è un osservatorio nazionale, confermiamo i dati, cioè dell'Istat come quelli di Coldiretti. Anche noi nel 2013 abbiamo registrato che il 72% delle famiglie intervistate ha dichiarato che spende meno e come dire, ha cambiato il proprio modo di fare la spesa. Questo perché sta molto più attento agli sprechi. Poi perché, lei mi dice, alla fine ci sono persone, abbiamo la fila delle persone che vanno a comprare l'iPhone piuttosto che ai ristoranti, eccetera. Anche se su quest'ultimo aspetto io aprirei farei una piccola postilla, nel senso che noi negli ultimi dati del 2013 abbiamo evidenziato che è vero che la gente va al ristorante, ma avevamo dedicato una parte del solito questionario che noi facciamo tutti gli anni proprio a questo aspetto del cibo e della socializzazione al cibo, per cui da frequentare pizzerie se non che i ristoranti. E quello che emerge è che gli intervistati vanno meno al ristorante, ma molto più spesso, ed è in linea anche con gli acquisti del cibo, in realtà molto più spesso la socializzazione del cibo si trasforma in un evento in casa. Quindi cioè meno al ristorante e più cene a casa, ho capito bene? Esattamente, cioè la cena al ristorante con gli amici diventa di più una cena in casa con gli amici. E questo in realtà va in parallelo. Prego. Con quello che dicevo per quanto riguarda i consumi degli alimentari. Coldiretti nel 2013 ci ha detto, così come l'Istat, c'è un incremento nell'acquisto di quelle che sono le materie prime, uova, miele, farine, preparati per i dolci. Sì, però questo non risponde completamente alla domanda che l'ho fatto, nel senso che io volevo capire, giustamente gli ascoltatori dicono: ma sì, voi parlate di una crisi, poi vediamo che non l'hotel 7 stelle dove si è sposata la moglie di Clooney, no, non si è sposata, ha dormito lì, però cose molto più da classe media vengono acquistate, per cui si bloccano gli Apple Store, oppure il traffico in autostrada non è che è composto da miliardari, che quelli non sentono la crisi per definizione. E allora come fate a sostenere che c'è la crisi? Quello che abbiamo letto e ha capito in questi anni è che, oltre a un calo generalizzato, perché se hai meno soldi spendi meno, ma c'è anche stata una ridistribuzione degli acquisti, cioè che alcuni prodotti, l'automobile, l'abbigliamento, che prima avevano un grosso valore aggiunto, hanno meno valore aggiunto, mentre l'iPhone, che per carità se lo può comprare solo qualcuno che ha un minimo di disponibilità economica, o lo smartphone per essere più corretti, ha un grosso valore aggiunto in termini di socialità, di quello che ti dà. Assolutamente sì. Prego, mi faccia capire. Sì, e guardi, intanto bisogna capire se queste persone che acquistano questi prodotti in realtà l'acquistano così in toto pagando quello che costa, se ne approfittano di promozioni, se non appoggiarsi al gestore telefonico o altro per pagarlo rateizzato, ad esempio. E Già questo bisognerebbe capire se la spesa viene fatta, cioè vado in negozio, lo compro e fine, oppure se si trovo, come dire, cerco delle modalità per acquistare appunto l'iPhone e pagandolo, come dire, o a rate o in qualche altro modo. E poi sicuramente c'è il valore aggiunto che hanno questo tipo di prodotti. Lo chiamo aggiunto perché si chiama aggiunto, ma non intendo dare una sorta di giudizio. No, vabbè. Certo. Nel senso che questi prodotti purtroppo creano un po' quella che è l'identità del gruppo, per cui se però dice purtroppo mi dà già un giudizio, per cui diciamo, ha ragione un'identità di... no, diciamolo molto tranquillamente, uno piace o non piace, può essere non d'accordo, si ritiene che nell'avere un prodotto di ultima tecnologia che ti permette di stare nei social network ci sia un valore aggiunto più alto che non nel cambiare l'auto ogni 3 anni come avveniva prima della crisi, o nel cambiare l'abbigliamento ogni anno come avveniva nei mitici anni 90, mitici solo per chi non li ha vissuti. Però dico, per cui attenzione, da questo punto di vista cambia anche l'orientamento oltre che il consumo complessivo, cioè i 1000 euro o 100 euro che ti escono ogni mese. Prego. No, guardi, allora, il discorso del purtroppo, per fortuna, eccetera, diciamo che questo tipo di prodotto crea la socializzazione, per cui non è più la macchina, ma è un qualcosa che può essere cambiato in maniera molto più veloce. Sì. Perché comunque la macchina, si presume, uno non la cambia ogni anno. L'iPhone, un po' perché mettono sul mercato sempre un modello nuovo, il cambio è veloce, per cui anche, come dire, nella propria rappresentazione agli altri, per cui negli oggetti che noi consumiamo, in realtà, come dire, sembriamo persone che in realtà acquistano in maniera molto più rapida, quindi, come dire, hanno anche le possibilità per farlo. Però ribadisco, io andrei a fondo nel vedere su come avvengono queste modalità d'acquisto, eh. Per cui le dice... Perché io adesso non dico che sono convinta, però secondo me bisognerebbe anche capire se non c'è una sorta di indebitamento, cioè nel senso di rateizzazione, di indebitamento, in maniera... Esattamente. Chiaro. Senta... Perché voglio dire, sì, è preoccupante comunque che uno decida di fare la rateizzazione sul telefono e poi vada meno a fare la spesa, ecco, è comunque preoccupante. Però prima di dire, secondo me... prima di dire che questi prodotti hanno, cioè si acquista di più questi prodotti e si fa meno la spesa, secondo me è da prendere un attimo con le pinze. Sì, fermo restando appunto che c'erano anche spese superflue, poi dipende quanto uno pesa. C'è un ascoltatore che mi scrive, uno di quelli che mi stanno scrivendo appunto sul fatto che la crisi non esiste. Barisoni, il mio tatuatore Al primo buco libero a gennaio 2015 e prende 150 euro l'ora. Attenzione, scriviamole bene queste frasi perché si prestano a varie interpretazioni. Sì, ho capito, ma non è che se il suo tatuatore al primo buco libero a gennaio 2015, magari nel tatuaggio, adesso non è che da 150 euro l'ora alla faccia della crisi del calo dei consumi, a parte il fatto che vabbè, è opinabile anche. Sarà una moda il tatuatore, però cerchiamo di capirci anche su un punto, professoressa. Non è che dire che i consumi sono in calo, che hanno toccato i minimi dal 94, da quando li misuriamo, significhi dire che praticamente qui c'è il deserto di povertà nel paese, cioè qualcuno continuerà a consumare qualcosa. Non è che è che rispetto agli anni scorsi il segno è meno invece che più. Esatto, io ribadisco col dire che i consumi sono in continuo calo e questo, voglio dire, i dati ce lo confermano. Forse l'attenzione del consumatore si sposta su un qualcosa di diverso, nel senso che forse noi ci siamo accorti anche con una ricerca fatta con delle interviste delle consumatrici che in realtà all'inizio queste dinamiche di risparmio erano solo ed esclusivamente per combattere la crisi, per cui io ho meno soldi, spendo meno. In realtà con il tempo queste dinamiche si sono veramente un po' strutturate nelle dinamiche di consumo quotidiane, per cui magari uno cerca anche, come dire, di addolcire, ammorbidire il momento che sta vivendo e, che ne so, magari spende su altre cose. Cerca di spendere anche su altre cose. Quello che voglio dire è che comunque sì, c'è questa crisi, non credo che ne stiamo uscendo. No, ma su questo adesso però manteniamoci sui consumi, perché poi tutta la parte con Padoan, certo che la crisi c'è e non ne stiamo uscendo. Si trattava di dare una risposta, e per questo la ringrazio, si trattava di dare una risposta al tema perché però alcuni generi, diciamo, c'era stato lanciato dagli ascoltatori alla luce di quello che è successo venerdì con il lancio dell'iPhone 6, perché alcuni consumi vanno così bene? Perché lì si ritiene che ci sia maggior valore aggiunto? Perché comunque, come ricordava lei, molte forme d'acquisto sono rateizzate o sono in convenzione, lo puoi ridare, per cui attenzione, non è l'acquisto dell'automobile o il cambio dell'abito ogni anno. E terzo aspetto, perché nella redistribuzione degli acquisti alcune cose sono crollate, si risparmia anche sugli alimentari, altre cose si sono mantenute, cioè non è tutto nero o bianco, un conto è la dinamica, un conto poi è la vita quotidiana di tutti noi. Noi parliamo ovviamente della dinamica, cioè se stanno crescendo o aumentando certi tipi di consumi e quali consumi crescono e quali calano. Complessivamente calano tutti, forse qualcosina sull'elettronica da consumo, e complessivamente alcuni settori hanno avuto cali pesantissimi rispetto ad altri. Vedi il turismo nelle formule, vedi la moda abbigliamento, vedi l'automotive. Grazie alla professoressa Debra Viviani. Grazie a voi. Sì, qualcuno cita Giampaolo Fabris, il compianto Giampaolo Fabris che è scomparso. Sì, lui fu il primo, me lo ricordo benissimo quella puntata, era il 2009, inizio 2009, quando ci disse: attenzione, qui non siamo di fronte a una neopovertà in senso stretto e di analisi statistica e sociologica, siamo di fronte a una neosobrietà, cioè alcune cose le cancelli o le riduci drasticamente, altre cose le mantieni, cioè vai a ridefinire. Non è che vai a tagliare con una, in maniera orizzontale tutti i consumi nello stesso modo. Non so cosa direbbe se fosse ancora vivo Giampaolo Fabris adesso, dopo, perché il rischio è che dopo 4-5 anni di neosobrietà ti arrivi la neopovertà, tout court. Quello c'è. minuti, vabbè, adesso alcuni di voi sono particolarmente cattivi, scrivono al 349-238-6666 o su Facebook. Allora, io non leggerò mai un vostro messaggio di commento sulla qualità dei nostri ospiti, criticate me e li leggo tutti, tutti no, perché staremo qua 4-5 ore, però lasciate stare, abbiate anche delle volte un po' di rispetto per l'emozione che può provare qualcuno che viene in radio, in diretta, e magari, cioè, l'emozione c'è se non lo fai abitualmente, per cui su questo inviterei soprattutto gli uomini a essere un po' più eleganti. Meno 1,30% l'indice FTSE MIB, meno 0,70% Francoforte, meno 0,80% Parigi, invariata Londra, e l'America perde lo 0,30%. Allora, sono arrivate a perdere oltre il 2% sia Milano che Madrid, c'è la fiducia dell'euro che non ha entusiasmato, però oggi sotto pressione soprattutto i titoli bancari, anche se sui bancari c'è sempre una buona scusa per vendere o per comprare in questi giorni. Settimana scorsa il tema era che, visto che gli stress test potrebbero andare meglio, si compra bancari. Oggi non lo so, meno 2,80% Pop Milano, meno 2,60% Unipolsai e Mediobanca, meno 2,50% Monte dei Paschi, meno 2,30% la Popolare Emilia Romagna, meno 2% il Banco Popolare e Intesa San Paolo e anche Unicredit. Dottor Salvatore Gazziano, responsabile di strategie di investimento di Soldi Expert, buonasera. Buonasera. Allora, su questo ogni tanto abbiamo ospiti che lavorano nel mercato, non solo i colleghi di Radio Core. Dunque, l'idea dei bancari, dei bancari, se oggi si va a vendere perché qualche dubbio, non sono tutti pretesti, perché la settimana scorsa gli stress test venivano utilizzati come idea per comprare. Mi dica, cioè, si può anche dire banalmente: abbiamo fatto rotazione perché non sappiamo che pesci pigliare. Prego, ma non lei, ma i suoi colleghi, prego. Chiaro. Sì, diciamo che questa settimana, inizio settimana, non è che siano uscite particolari notizie negative sul settore bancario rispetto a quelle della scorsa settimana. In realtà ho provato anche a controllare tutte le varie agenzie che, oltre a quelle che abbiamo visto quest'oggi, non è uscito nulla di particolare, e su alcuni titoli che abbiamo visto questa mattina scendere tra il 2 e il 3%, come Intesa, Popolare di Milano e Banco Popolare, o MPS, che però è un titolo di abbia abbastanza abituato alle discese o alle grandi salite, un grande volatilità, non sono uscite notizie particolari, al di là delle notizie che hai già citato del Commerzbank, che però riguarda una banca tedesca con problemi di riciclaggio di nuovo sospetto negli Stati Uniti, o più che altro i dati anche oggi del vendite da parte dei BTP a 5 anni, che ormai hanno raggiunto un rendimento dell'1%, non è che con uno spread così basso sono dei dati, diciamo, ecco, sicuramente il settore bancario era rimasto comunque fra i più forti ancora in questa ultima parte dell'anno, e quindi è possibile che uno scenario in cui ci siano delle possibili incertezze sono sui titoli che più facilmente magari vengono andati a liquidare, perché sono quelli che hanno sostenuto finora più di listino a piazza affari anche in questa parte dell'anno. Ecco, senta, lasciando stare i bancari, perché mi piace la sua onestà intellettuale, dire non è che ci siano novità enormi, c'è un po' di rotazione e via così. Però sul lusso, di nuovo oggi Ferragamo meno 4%. Qui io ho detto all'inizio del programma Hong Kong non ha ancora ripercussioni sulla finanza, sulla borsa. Ho detto una cavolata, ogni tanto mi capita. Perché su Ferragamo anche Tod's va molto male oggi, meno 2,40%. Qualcuno il calcolo che Hong Kong, che diciamo è la vetrina più importante per l'Asia, con buona pace di Shanghai, per il lusso, anche per il lusso italiano, che un problema vi possa essere, l'ha fatto? Solo speculazione o c'è anche un ragionamento dietro? No, qui diciamo sul settore del lusso, tra l'altro pochi giorni fa su Money Report il nostro sito informativo abbiamo rilasciato un'analisi del settore del lusso della moda, che solo fino a 6-7 mesi fa era considerato uno dei settori più importanti su cui puntare. In realtà da qualche mese si sta assistendo a una ritirata da parte degli investitori, parliamo per fare il caso di Ferragamo, anche titoli come Tozzo, Prada sono addirittura almeno 45% rispetto ai massimi dello scorso anno, hanno quasi fatto un'operazione di mega saldi sul prezzo del titolo. Diciamo Hong Kong è un'altra goccia che si va ad aggiungere, perché questa mattina ricordiamo Hong Kong, ci sono stati continuati movimenti di protesta da parte dei giovani studenti che chiedono più democrazia, addirittura siamo arrivati a 78 arresti che non si verificava da molti anni a Hong Kong, un movimento di così forte protesta che tra l'altro arriva a pochi giorni da 3 giorni di borsa chiusa a Hong Kong, e questo insomma aiuta un po' a preoccupare anche gli investitori sul fatto che in una situazione del genere, se poi vanno a chiudere anche i mercati per teste che erano state già preordinate, questo può diciamo un po' far temere la cosa. In questo momento su tutto il settore del lusso da diversi mesi stiamo assistendo a un calo delle vendite e a una grossa compressione dei margini, come ci dicono le semestrali e le trimestrali di aziende in tutto il mondo, compreso quelle nostrane da Ferragamo piuttosto che Prada piuttosto che Tod's. In realtà proprio quello che sta mancando da una parte su aziende come quelle che abbiamo citato, manca un po' il turismo in Italia da parte di questi asiatici che erano i più grandi compratori delle grandi crisi italiane, che arrivano meno, ma l'altro dato un po' preoccupante è che anche il mercato interno di Cina, di cinesi o russi, poi anche lì c'è un'altra situazione che ben conosciamo, comprano molto meno del passato di lusso o delle previsioni che erano state fatte, infatti i margini molto sono costretti a passare i prezzi, le stesse aziende, la stessa Tod's quando ha fatto qualche settimana fa l'Investor Day non hanno nemmeno ben chiaro come gestire questa situazione, ecco. Quindi Salvatore Ferragamo, il caso che ha citato, è un'azienda che comunque ha una quota molto importante di export in mercati come ecco quelli. Resti con noi, perché adesso io ho GR24, una molto importante e interessante sul ragionamento anche sul lusso italiano. Resti con noi dottor Gazziano, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Poi parleremo anche della politica economica del governo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi arrivare anche all'intervento molto articolato del ministro Padoan oggi. Allora, dicevo con il dottor Salvatore Gazziano, che è responsabile di strategia di investimento per Soldi Expert. Del lusso abbiamo ampiamente detto, ci ha fatto capire sia l'impatto così molto contingente per ora di Hong Kong, ma anche un insieme di dati non esaltanti sul settore del lusso. Per quello che riguarda invece altri titoli, abbiamo visto World Duty Free più 1,12, Atlantia più 0,80, Campari più 0,50 e Prismian, l'ex Pirelli Cavi, più 0,35%. Tra i migliori e peggiori, Rete Elite più 12,30, Jeffren più 8,40, Seat Pagina Gialla più 7,70 e Invest più 4,12. Stefanel invece meno 4,90, Moleskine meno 4,70, Ambro Mobiliare meno 4,50, Sogefi meno 4,30. Ci sono novità su Seat Pagine Gialle? No, di particolare su Pagine Gialle continua la storia infinita di questo colosso. Diciamo che quest'oggi si aspettano nuove notizie, al di là dell'omologa del controllo preventivo, però non ho maggiori agguagli. Ecco, una domanda che facciamo sempre quando facciamo commentare i mercati agli operatori, al di là poi dei singoli titoli della singola giornata, lei dove sta orientando i suoi investimenti come settori, visto che titoli non li possiamo dare? Ma diciamo sicuramente il settore della salute, del cosiddetto healthcare, sia in Italia che all'estero, è quello che in questo momento sta dimostrando ormai da diverso tempo, diciamo, fra i più interessanti. Diciamo, nel nostro caso l'approccio comunque è molto flessibile e attivo, e guardiamo molto il momentum del mercato e dei settori e dei singoli titoli. Quindi questo non significa per noi, è proprio il caso della moda e del lusso, che fino a pochi mesi fa tutti raccontavamo, almeno non noi, ma molti raccontavano come settore assolutamente da avere in portafoglio, poi è arrivato a perdere in alcuni casi anche il 40-50% su singole storie molto importanti, dimostra che non si può avere un approccio così statico di lungo periodo all'investimento, perché la storia di Piazza Affari non solo dimostra che un approccio del genere secondo noi è perdente. Quindi in questo momento ci sono pochi settori forti, sia nell'azionario che nell'obbligazionario, ma è sicuramente un momento in cui il mercato ancora non ha ben chiaro da che parte andare, soprattutto diciamo a livello italiano e europeo. Siamo in una fase, a differenza di altre borse, in cui abbiamo corso molto, ma in questo momento non si capisce se stanno rinascendo nuovi settori più forti o invece siamo vicini a una pausa di consolidamento. Anche perché è vero che le borse hanno ritracciato, però sui livelli sono ancora abbastanza alte, per cui lei dice non c'è un'indicazione chiara come fu per esempio il lusso mesi fa. Esatto, gli indici un po' mentono, perché poi se si vede i singoli titoli rispetto all'indice dov'è, anche nel settore bancario, ma nel settore delle costruzioni, sono pochi i settori che hanno resistito in realtà nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, diciamo, le perdite sono state maggiori di quello che dicono gli indici. Grazie, buon lavoro al dottor Salvatore Gazziano, responsabile di strategia di investimento di Soldi Expert. Grazie a voi. Ultimi mesi più o meno tutte le istituzioni internazionali, ma anche i governi nazionali e anche gli analisti privati hanno dovuto ripiegare su se stessi per quanto riguarda le stime di crescita, che si sono rivelate eccessivamente ottimistiche fino a pochi mesi fa. Questi rinvii suggeriscono non solo che la crescita si è dovuta spostare più in là nel tempo, ma che probabilmente alcune cause profonde della mancanza di crescita non sono ancora ben comprese da tutti noi. I problemi che ci stanno di fronte sono più profondi di un semplice andamento ciclico, per quanto particolarmente pronunciato. I principali fattori sono immediatamente riassumibili così: gli investimenti, che sono andati calando in tutti i paesi europei e non solo per molti anni e che stentano a riprendere, la disoccupazione, che soprattutto nella zona euro resta molto elevata in tutte le sue componenti, l'andamento dei prezzi, che è continuato ad andare in basso e ora ci troviamo in una situazione che con un neologismo si chiama di bassa inflazione. Ci troviamo quindi di fronte a una combinazione molto preoccupante di persistenza di bassa crescita, di bassi investimenti, di elevata disoccupazione, di bassa o nulla inflazione, in un contesto nel quale il debito pubblico e privato rimane elevato. Sì, facciamo notare in apertura del programma che lo stesso ministro Padoan dice un neologismo, bassa inflazione, come dire, per non dire che non c'è inflazione, che siamo in deflazione, diciamo, usiamo il termine bassa inflazione. Ma sempre il ministro, sempre nel corso del suo intervento alla Camera, ha detto che bisogna usare tutti gli strumenti a disposizione, serve un mix non solo di austerità. E poi la vera sfida per l'Italia e l'Unione Europea sono le riforme strutturali. E poi ha detto attenzione sul fiscal compact, quello che prevederebbe di ridurre sostanzialmente, ci chiederebbe di ridurre per i prossimi 20 anni il deficit del 3% l'anno, del debito del 3% l'anno, cioè 3 punti di PIL l'anno, 50 miliardi in meno di debito all'anno, una follia a mio avviso in questo momento, in questo scenario economico. Lo stesso ministro Padoan dice il fiscal compact è stato concepito in un quadro macroeconomico più favorevole, andrebbe tenuto conto delle difficoltà di alcuni paesi. Le manovre di aggiustamento con questo quadro sono più difficili, ma noi continueremo a perseguirlo. C'è ancora del cammino da fare. La presidenza italiana ha indicato alcuni pilastri, gli investimenti, il mercato interno, le riforme. Tutto ciò va collocato in un contesto nel quale il quadro macroeconomico deve essere reso meno stringente. Il quadro macroeconomico è oggi oggettivamente di semistagnazione e di inflazione decisamente troppo bassa per rassicurarci. In questo contesto tutte le manovre di aggiustamento sono più difficili. Ma noi continueremo a perseguirle. Solo che bisogna riconoscere che il fiscal compact, strumento essenziale, è stato probabilmente concepito in un contesto nel quale il quadro macroeconomico era più favorevole di quello attuale e di conseguenza andrebbe tenuto conto della diversità del quadro macroeconomico, effettivamente delle circostanze eccezionali, soprattutto per alcuni paesi, nella valutazione, nell'applicazione di questo strumento che rimane essenziale e che va reso più potente e effettivamente più orientato alla crescita. Allora, così il ministro Padoan oggi. Poi ascolteremo anche alcuni passaggi di Renzi ieri nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Però ringrazio per averci raggiunto il collegamento Dino Pesole. Dino, buonasera, del Sole 24 Ore. Buonasera. Prima domanda, poi il resto. Cos'è? Padoan sta mettendo le mani avanti? Te la chiedo in maniera molto senza perifrasi. Cioè dicendo, cerchiamo di fare il possibile, ma il quadro è peggiorato e non di poco? Io penso che alcune cose che ha detto oggi il Ministro siano importanti ma persino ovvie, cioè che in una fase di perdurante stagnazione, noi siamo in recessione quindi altro che stagnazione, il ricorso alle circostanze eccezionali previste già dal patto di stabilità sia scontato, vale a dire occorre più tempo per rientrare nella regola del debito, quella che tu citavi prima. Dopodiché è una esplicita ammissione che gli spazi di manovra sono abbastanza ridotti. A un certo punto nel passaggio, in uno dei passaggi del suo intervento, lui dice che la politica monetaria sta raggiungendo i limiti della sua azione e la politica di bilancio ha pochi spazi. E questo è il rischio di avvitamento. Sì, traduco per tutti, cioè la Banca Centrale Europea non può fare molto di più, cioè può fare solo una cosa, comprare debito dei paesi a sto punto, perché i tassi sono a zero, comprerà gli asset, gli ABS delle banche, quelli di buona qualità, ha già iniziato a erogare le prime decine di miliardi alle banche a prestiti agevolati perché le diano alle imprese e alle famiglie, la politica monetaria, le cartucce le ha quasi finite. E anche, tu dicevi, i margini sulla finanziaria, i margini di manovra. I margini di manovra per la politica di bilancio sono scarsi perché ci sono i limiti imposti dal 3%, dall'aggiustamento strutturale e quant'altro. Dunque questo meccanismo, questa architettura va rivista, ormai credo che siamo arrivati al punto nodale. ci vorrà del tempo, forse sì, ma non ce n'è nemmeno tantissimo, quindi va fatto rapidamente un insieme, appunto, un policy mix, cioè bisogna mettere in moto un piano di investimenti. Sì, però Dino, il policy mix lo fai se è d'accordo l'Europa ed è d'accordo la Germania, nel senso che non è che possiamo fare noi un po' decidere da soli, che sì, potremmo anche annunciare all'Europa: signori, usciamo, non rispetteremo il 3% quest'anno. Mi sembrerebbe fatto così da soli semplicemente un modo per attirarsi gli strali senza avere grossi benefici. E dopo il traffico vorrei capire su cosa sta lavorando il governo, anche perché ieri Renzi ha confermato il bonus da 80 euro da un lato, non torno sull'articolo 18, però ha detto anche che l'ipotesi del TFR in busta paga ogni mese, il governo ci sta lavorando. E qui va dato onore ai colleghi del Sole 24 Ore che per primi anticiparono, abbiamo avuto ospiti, la notizia proprio sul giornale, cioè che il governo sta lavorando un'ipotesi in cui una parte del TFR venga messo mensilmente in busta paga e non resti, diciamo, accantonato per quando uno finisce il lavoro. Se noi riuscissimo a trovare un modo per dare liquidità alle piccole imprese, alle piccole e medie imprese, noi potremmo dal 1 gennaio mettere il trattamento di fine rapporto non alla fine, ma mensilmente in busta paga. È una proposta che viene da una parte del sindacato. È complicata, perché c'è una parte degli italiani che dice: ora, io mi sento più tranquillo ad averli alla fine, perché magari poi si sposa mia figlia. Tutto vero, ci sono anche gli strumenti di previdenza integrativa. Allora su questo sarebbe bello sfidare anche il sindacato a non stare dietro soltanto ai meccanismi del passato, ma a inventarsi soluzioni nuove. Vabbè, questa era Renzi sul TFR, confermando l'indiscrezione del Sole 24 Ore, e lì sappiamo che bisogna stare attenti a quanta parte conferita del governo lavora sul 50%, stare attenti anche al fatto che appunto ci sono gli strumenti di previdenza complementare. Abbiamo raccontato per anni che il TFR andava messo nei fondi di pensioni integrativi, e per le imprese faccio notare che i 23 miliardi che vale il TFR sono liquidità per le imprese ogni anno, non vengono utilizzati come liquidità, però insomma. Dino Pesole, è chiaro che col TFR puoi fare qualcosa, perché magari giustamente uno avendoli in questo periodo di difficoltà, io posso essere anche d'accordo che uno preferisca usarli adesso e non aspettare fra 20 anni, quando magari la situazione sarà migliorata, o fra 10 anni, e usarli adesso per consumi, anche magari c'hai figli piccoli, hai delle spese improvvise, quello che vuoi, però non è che col TFR facciamo una manovra. Quali sono gli altri pilastri su cui si sta muovendo il governo? Beh, allora certamente ormai questo è assodato, la conferma del bonus da 80 euro per i redditi fino a 26.000 euro, con l'esclusione però non ci saranno estensioni del bonus. Ricordo che per ora il bonus è previsto per i lavoratori dipendenti, e dunque sono esclusi i pensionati, le partite IVA e gli incapienti, quindi non ci sarà un'estensione, e questo comunque verrà confermato. Il governo sta lavorando anche a un nuovo possibile intervento sull'IRAP, non ancora definito, lo ha anche confermato poco fa il ministro Padoan alla Camera. Ma per quanto riguarda il TFR c'è un'ipotesi allo studio, con una serie di opzioni, ma certamente con un percorso che non è proprio facilissimo, perché occorre, come tu dicevi, prevedere dei meccanismi compensativi per le imprese cui viene meno della liquidità. Allora l'ipotesi che si possa sostituire questa liquidità che viene meno con quella che affluisce o affluirà in misura più consistente a dicembre dalla BCE è in via di valutazione, ma non so se qui potrà esserci un automatismo, cioè per spiegarlo in modo banale. No, ho capito che dici, l'impresa che deve rinunciare a centinaia di migliaia di euro perché il TFR che accantonava per darlo poi al lavoratore, ma intanto era contante che circolava, può darlo, se il lavoratore lo chiederà, lo darà al lavoratore mensilmente in busta paga, e però dovrebbe poter ricevere, tu dici, magari l'equivalente come prestito agevolato dalle banche, che a loro volta l'hanno ricevuto dalla BCE. Esatto, se c'è questo automatismo va benissimo, ci si può discutere. Viceversa c'è un problema, perché a quel punto occorre prevedere meccanismi compensativi per le aziende in modo più preciso. Non so se questo automatismo sarà semplice, quindi il meccanismo è da perfezionare. Comunque c'è un'idea, ci si sta lavorando e verrà inserita in legge di stabilità con ogni probabilità, poi ci sarà il dibattito parlamentare, vedremo. Nel frattempo domani sembra che arrivi la nota di aggiornamento del quadro macroeconomico fissato ad aprile, e lì appunto ci saranno delle notizie importanti, perché intanto verrà certificato che quest'anno l'economia è sotto zero, sarà un meno 0,3%, con un piccolo incremento sembra dello 0,5% l'anno prossimo, ma obiettivamente il quadro è talmente precario che la scommessa va giocata su più fronti. No, io dopo 4 anni che raccontiamo che l'anno prossimo ci sarà la ripresa economica, giuro quest'anno che non lo dirò, magari c'è veramente così. No, perché 4 anni che poi mi becco gli insulti, giustamente, degli ascoltatori che dicono: anche quest'anno ci ha preso per i fondelli raccontandoci che ci sarebbe stata la ripresa non c'è. Allora, quest'anno non lo diciamo più, lo valuteremo di trimestre in trimestre quando escono i dati Istat. Teoricamente ci dovrebbe essere uno 0,5, così basta, no? Perché non ne posso più nemmeno io. Vai, Edino. Mi sembra un atteggiamento molto prudente ed è esattamente quello che il governo si appresta a fare. Peraltro non è certo tua o nostra responsabilità, è il governo stesso che in aprile aveva previsto una crescita dello 0,8, e quindi, come dire, ha sbagliato il governo, hanno sbagliato un po' tutti e noi non facciamo altro che registrarlo. Ma il punto fondamentale è se e come riusciremo a crescere. Certo, lo 0,5 è modesto, l'OCSE addirittura prevede lo 0,1, se siamo attorno a queste cifre non andiamo molto lontano, quindi qui bisogna appunto ritornare a quello che dicevamo. E torniamo da dove siamo partiti con te, cioè attenzione, finché tu hai il deficit al 3% come vincolo e la congiuntura macroeconomica che è peggiorata, i margini di manovra sono pochissimi. Certo, sul TFR si può fare qualcosa, vedo molti ascoltatori preoccupati di una cosa, hanno ragione, vedremo poi il decreto se ci sarà. Il TSR attualmente è tassato in maniera bassa, se lo metti in busta paga ogni mese lo vai a tassare nella parte più alta dell'aliquota e quindi potrebbe essere una fregatura. Però al di là di questo non esci con i piccoli rimedi, per quanto importanti possano essere. Forse converrebbe anche ricontrattare, come tu facevi notare tra le righe, andare da Bruxelles e tornare, dire: beh, adesso fatte con queste riforme fatte o ormai partite, non solo annunciate, andiamo a prenderci più margini almeno per l'anno prossimo, per avere iniziative poi per far ripartire la crescita, cioè investimenti e consumi. Grazie a Dino Pesaro del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Swissquote, un leader globale nel trading sul Forex, vi ha presentato Focus Economia.